mettere anche l'MPP5, l'MPP4. No, fra, mi devi scusare, dai, c'è il volume passo io. Era, ho proprio attaccato il volume, va benissimo. No, no, già va bene. Già va bene. Già va bene. Siamo tittoni a tutti. Diciamo è un po' metallica la radio. C'è qualcosa di metallico, ma è tipico delle capsule ceramiche. È K, probabile che sia anche la capsula, capito? Perché dentro la capsula l'ho fatta tutta bella, gli ho messo quella gomma piuma fine, gli ho messo proprio davanti, che è quella che c'aveva, e come l'ho aperto si è sbriciolata, è caduta, e allora l'ho cambiata nuova, l'ho cambiata. E in modo che abbia, diciamo, la gomma piuma di nuovo come era una volta. No, ma già va bene, prova a tassare il volume adesso, c'è chiara la modulazione. È perché il volume è basso, io adesso non mi riconosco, perché Gavino arriva una bomba e l'ho abbassata, quindi se non si sente il palazzo. Gavino sta usando tutto un altro microfono, diverso dal mio. Io sto usando un MPP4, scusate, un MPP4 con lo Shure e niente, come ti sta arrivando, fra, è bella la modulazione sempre. Sì, sì, è bella la tua modulazione, bella chiara come ti ho detto ieri, e lo voglio fare ieri, adesso mi incontro. È positivo, positivo. Uia, devo essere un po' preso a gola, c'è qualcosa, un po' di raucidine, un po' di raucidine. Con Franza sì, abbiamo fatto delle prove con Gianni, lui era in barra mobile, la sua cosa mi arrivava da qua, lui va bene, era diciamo zone ovest nord Sardegna, arrivo qua a casa, mi arrivava, ho fatto un video perché se gli ho detto se glielo dico magari non ci credo, mi arrivava a 9.20, mi arrivava a 9.20 alla radio 5, e gli ho mandato il video, secondo me fin quando non ha visto il video non ci credeva. Cappa, però Gianni gli riesce bene dalla macchina. Ho visto che a volte sto ascoltando e lo sento a Sassari, in tutto Sassari lo ascolto io da qua. Sì, 9.20, poi quando si è fermato alle 9.30, 9.30, tranquillo, mi arrivava più forte dalla macchina quasi che di lì dove era che da casa, vai già riprendi. Ehi, purtroppo c'è il microfono che mi sta rompendo le scatole, ma lo voglio guardare bene. A volte esce, fra, a volte non esce, provato, pulito, il PTT, tutto grande, l'ho messo lo spray per contatti, gli ho spostato l'aria, tutto grande, e niente, a volte manca di radio. Capo, probabilmente c'è qualche problema, cioè, niente, Gianni, questo è l'MPP5, lo vedi, diversa la modulazione. Sì, il più 5 non risulta metallica, nel senso di metallico che dà la capsula ceramica, non ce l'ha. Capo, no, questo è originale, è nuovo, questo l'avevo preso da poco, l'anno scorso l'ho preso. E non gli ho fatto nessuna modifica, non gli ho fatto niente, non l'ho toccato, gli ho tolto solo quella rondella che c'aveva nel microfono, gli ho tolto, e basta. Ma già esce bene, non è fortissimo come quando gli fa la modifica. La modifica quando gliela fai esce più forte perché lì togli la resistenza che trattiene la modulazione, diciamo. Capo, sì, sì, la conosco quella modifica, però non gliela faccio perché secondo me va bene così, dovrebbe essere anche chiaro. Invece nell'MPV4 gli avevo fatto la modifica e poi gliel'ho tolta perché va bene così lo stesso. Avanti, capito? Sì, fra, non come mi sarebbe benissimo, vabbè, mi sarebbe benissimo, tranquillo, una telefonata, vabbè, siamo vicinissimi noi, però non sei saturo, la modulazione è perfetta, ti ascolto. dall'altro hai anche, ti accendo anche un po' di modalità di modulazione bassa, un po' di bassa frequenza, l'accendo, quindi ci sta bene, sì, perfetto, un benissimo, va meno per quanto riguarda qua nel QTH, va benissimo. Però secondo me la modifica in questi microfoni ci vuole, perché per esempio questo che sto usando io ha la modifica, lo vedi, ha la modifica perché loro cosa fanno per non alzare troppo la modulazione, diciamo la qualità della capsula, che è una capsula che non serve, quella degli MP4 T5, mettono queste resistenze che funzionano come c'hai per esempio negli apparati, nei keyboard hai il coso, il ma come si dice, la modalità delay, che prende, ti dà quella dinamica della voce sempre normale. Queste resistenze sono più piccole e quindi vanno appunto a prendere a compensare quelle frequenze della capsula che non serve per migliorare la modulazione. Quindi si tocca il microfono, cambi la capsula e gli fa la modifica. Esce bene, riprendi fa. Ehi capo, sì. No, alla MP4 gli ho cambiata la capsula, gli ho messo una di un telefono, una cornetta di telefono e quelli della SIP. E ha migliorato dalla originale a quella capsula. Questa non l'ho toccata ancora. Qua cercati una capsula di microfono dinamico normale, di quelli per cantare, prova a metterla e vedrai che soddisfazione che avrai. E prendi già. Ma io che se la prendere una capsula di tablet per me. È troppo grossa, ce l'ho quella. Troppo grossa, ci sta. L'MP4 e Q5 ci sta. Ecco. Non so se ci sta. Mi sembra che il Tarnet 3 è quella grossa. Non lo so, se non ci ho mai provato a dire la verità se ci sta qua. Ma ci ho provato io. Pure qualche giorno ci provo. Quella dovrebbe andare bene. Io grido, quella è bella la capra. Adattata, magari ti si faccia la membrana. No, io ce l'ho quello, il microfono, ma non mi funziona. Però la capsula già funziona, è solo lui che non funziona. Non ce l'ho neanche io adesso, che ce l'ha un amico, ce l'ha che me lo stava controllando. E adesso qualche giorno me lo ritiro. Tenetevi conto che stanno prendendo valore. Ecco. No, io sono belli, io microfoni non è. Quelli buoni già non risolgo. L'unico che non riesco a fare andare è coso, quello. Come si chiama? Questo qua, quello è Cialerta. L'Ecomaster non riesce a farlo andare, sempre quello brucio. Salelta, bello lo stesso Salelta. Salelta è bello, sì. No, vabbè, con la frazione di fischio potrebbe essere roba in alimentazione. Fra. Ma se gli ho messo la batteria nuova, 9 volte. Tranquillo, all'inizio non mi fischiava, poi tutto un colpo è partito il fischio. Guarda i condensatorini, guarda che c'ha qualche condensatorino partito, vuole fare. E sicuramente è quello. Sicuramente è quello lì fra. È una stupidaggine, perché quello lo fa in alimentazione. Peccato il microfono, perché è bello. No, io sono curioso di provare, io ce l'avevo il channel P3 Super Sigelic e l'avevo venduto, però l'ho venduto in continente, però se lo trovo me lo prendo un attimo un altro. Fermo 1 e lo abbino al Superstar 3009, perché c'è una scheggia. Guarda che ci sono in vendita. Lo so già, ci sono in vendita, ma chissà cosa ti danno. Quel microfono non lo vende. Allora io ti dico, io so solo che chi ha quel microfono non lo vende, e se lo vende c'ha problemi, quindi soprattutto devi trovare magari da una persona che conosci, che magari se ne vuole liberare, oppure pure fare uno scambio con qualcosa che lo senti, sai che è buono, allora va bene. Perché chi ce l'ha non lo vende, o se lo vende ha problemi, oppure magari interessa darlo per qualcosa di più importante e tu mi trovi con un compromesso e la dice davvero, mi sembra. Allora, chi sta vendendo questa roba io lo conosco ed è, sono persone serie, sta vendendo una serie di microfoni, una serie di apparati, perché ne aveva un bel e un po' se ne sta sbarazzando di quei apparati. I microfoni ne ha una fila, se tu vai a guardare su Marketplace lo vedi. Io ho capito chi è già lui ha. Ho visto anche io, ho visto quei microfoni lì. Già ho capito quel ragazzino è. E Riccardino senza fare nome. Sì, infatti non ho fatto nome. Ho detto quel ragazzino, non ho fatto i nomi. No, io questo Riccardino lo conosco, questo l'ho perso, chi è? Io pensavo un'altra persona, no, Riccardino lo conosco. Lo conosco io, sono persone serie comunque, non vedono roba, ma i controlli, te lo provi, ma non lo so. Ce li ha, ne ha una fila lunga, tutti i microfoni da tavola. Ma è su Marketplace? Su Marketplace, vero? Sì, mi sembra lì proprio, l'ho visto. Un giorno girando, l'ho visto lì, ho guardato chi era il proprietario, ho visto Sassari, ho detto ma esci a vedere, e ho letto il nome suo. No, non lo conosco, non ho visto neanche l'annuncio, la verità, non ho visto neanche l'annuncio. Dopo lo cerco. Beh signori, io si è fatta mezzanotte quasi, si è fatta mezzanotte e io momentaneamente fino a domani chiudo le trasmissioni, perché poi domani mattina la Giulia presto e a me qua adesso mi spetta altra mezz'ora di lavoro per sistemare il cane, non so quanto, c'ho un'altra mezz'oretta di lavoro, quindi la cosa adesso deve, le trasmissioni le chiudo qua, augurandomi una buona notte, un buon tutto, una buona giornata per domani, e tante belle cose, vai Gianni, riprendi. Ehi, dai, anch'io sto chiedendo, dai, ciao Franco, ciao anche a te Gabi, mi ha fatto piacere fare questo consiglio tranquillo, dai. Ci sentiamo, buonasera, buona continuazione, allora se c'è questa mezz'ora e poi buonanotte, ciao a tutti, corre ti per me pure. Ciao Gianni, buonanotte, buon tutto, dai, ce ne ascoltiamo le prossimine, va bene così, avanti Gabi. Sì, anche io chiudo che sono, che si è fatto già tardi. Ciao Franco, buonanotte, buon tutto, buona giornata per domani. Poi domani, se Dio vuole, dopo cena, solito ora sono in radio. Se volete, se ti vai a entrare, fa una bussata, ed è sempre un piacere da parte mia. Ok, ciao Franco, di nuovo, buona nottata. Ciao. Adesso vediamo. Domani, se ho 10 minuti, gli rifaccio la modifica, quella l'MP4, e poi domani notte, se entro, cioè, a meno che non sono impegnato, se entro, lo proviamo. Ciao, buonanotte, buon tutto, ci ascoltiamo alle prossime. Sì, va bene. Ciao, buonanotte. Ciao.